Vittorioni! Dietro Inter non c'è nulla, ci sono i magazzini e i camion! Non c'è niente dietro questa tecnologia! Sono linguaggi fascisti! Via dalla rete, venite qui a dircelo! Quanto pesa Internet nella campagna elettorale italiana? Non sono io la persona più adatta a darle una risposta e con una conoscenza del mezzo che francamente non ho. Vuoto Antonio. E chissà, forse sarà proprio la rete a salvare o cambiare la politica e i politici. Sono Simone Spezia e parleremo di questo ogni sabato mattina dopo il GR delle 9 con Vota Antonio, che ospiterà anche il punto settimanale di Stefano Folli.